dobbiamo parlare, di cosa lo sai? Dobbiamo trovare il modo si trova dai. Non puoi rimandare, non dirmi vediamo poi. Dobbiamo parlare, parlare di noi. Ti manca qualcosa, cerchiamo una casa. Ti serve una scusa, di cosa hai paura? Vorresti più tempo, ma tempo ne hai avuto già. Non vedi che intanto aumenta soltanto l'età. Dobbiamo parlare, ma come di che? Ma tu vivi sulla luna o vivi con me? Beh, ci vuole equilibrio, ci vuole rispetto. Non chiuderti in bagno, cazzo, è un'ora che ti aspetto. Con tutti i tuoi difetti, i tuoi misfatti e conti fatti, tu mi sfrutti e mi contesti, poi sfruttandomi mi sfratti, ti travesti nei dibattiti, ti batti per diritti che per primo tu calpesti. Per favore, siamo onesti ancora. Il fatto è che l'effetto dell'affetto si riflette sull'affitto che di fatto tu non paghi affatto. Infatti te ne fotti dei contratti, te ne sbatti li ritratti e te ne scordi degli accordi presi 50-50 tutti i mesi. 50-50 sembra impossibile, e invece è banale in realtà. Per essere indivisibile devi sentirti metà. E sembra improbabile, e invece è geniale in realtà. Doversi dividere per raggiungere l'unicità. Dobbiamo parlare, di cosa lo sai? Dobbiamo trovare il modo si trova dai. Non puoi rimandare, non dirmi vediamo poi. Dobbiamo parlare, parlare di noi. 50-50.